approfitto allora per darvi intanto il benvenuto e il benvenuto soprattutto anche al professor Ventola che è qui con noi questa sera e che lo aspettavamo, eravamo molto curiosi di confesso perché sapevamo che era giovane, detto, mamma mia, veramente ha mantenuto la promessa e infatti è un giovanotto e siamo contenti perché ci alza un po' la media, ecco, no? Nel senso che il relatore ogni tanto sono più maturi, diciamo. Vi ringrazio di essere così numerosi. La biblioteca ha iniziato praticamente questa settimana con le attività di nuovo di incontro con gli autori, con le autrici. È una missione che portiamo avanti, è un servizio civile in cui crediamo tantissimo perché sono delle splendide occasioni per aprire la biblioteca, per far incontrare le persone fra di loro, ma soprattutto per sentire e conoscere degli aspetti diversi della vita e quanto mai è importante anche in questo settore avere così delle buone relazioni e una collaborazione efficace e direi molto bella con le varie associazioni operanti sul territorio. In questa serata abbiamo appunto il piacere di ritrovarci con il Centro di Psicosintesi di Bolzano. Ringrazio la qui presente Anna Maria, ma ringrazio anche ringrazio anche Mariella perché sono persone sempre molto attive, Renato che è giù in fondo, persone attive molto piene di risorse, di iniziative, di idee, quindi anche per la biblioteca che è un cuore pulsante, insomma, che deve offrire al cittadino sempre degli spunti nuovi e la collaborazione in questo senso è di grande aiuto. Ringrazio questa sera l'associazione e le persone che vi lavorano. Bene, non vorrei dilungarmi troppo, l'obiettivo era quello di presentare, è quello di presentare il libro Il coraggio di volere, si inserisce in un filone che voi conoscete e che sapete essere appunto del cuore della vostra attività. La biblioteca offre anche altri spunti, nel senso che ci siamo fatte consigliare una bibliografia, cerchiamo di coltivare e di sviluppare anche questo settore. Vi invitiamo anche a tornare in biblioteca perché i libri ci sono, possono essere presi, letti e messi a disposizione del pubblico ed è il nostro compito fondamentale, quello di essere al servizio appunto del lettore e della lettrice. Vi ricordo un altro appuntamento lunedì sera che sarà la volta invece di una giovane autrice, Cristina Chinaglia, che presenta un suo libro, una spy story ambientata in giro per l'Europa ma anche con degli agganci qui nel Trentino e nell'Alto Adige, il titolo è Il risveglio, sarà così un piacevole incontro con una giovane scrittrice. E infine ricordo il premio Claudio Augusta che ogni anno, e quest'anno per il 19° anno consecutivo, premierà giovani studenti e studentesse che si laureano, se sono laureate, con una tesi di interesse locale. Il 21 di ottobre festeggiamo 20 anni della biblioteca, che piacere alle ore 18 qui può partecipare con noi e festeggiare insieme questo primo importante traguardo. A lei la parola, professore, e grazie a tutti quanti voi di essere qui con noi. Grazie mille. Buonasera. Grazie ad Annalisa per l'invito e ai collaboratori del Centro di Bolzano, alla biblioteca e all'ospitalità e anche a voi per creare insieme questa opportunità di una conversazione. Devo subito dirvi che a parte le varie difficoltà fisiche eccetera, ho appena scoperto di essermi dimenticato una quindicina di pagine che avevo preparato dettagliatamente per preparare questo incontro, nella difficoltà di sintetizzare in circa 45 minuti, che è il tempo che più o meno avrò perché poi mi auguro di aprire un dibattito, una sorta di domande e risposte tramite coscienza di gruppo, su questo libro a cui ho dedicato credo circa 5 anni e con molta fatica, in cui sostanzialmente abbiamo fatto io e Piero Ferrucci, che è uno degli ultimi allievi di Assagioli, il fondatore della psicosintesi, delle conversazioni sull'ultima eredità di Assagioli, il progetto Volontà, nel suo studio di Fiesole diversi anni fa. E quindi la prima sfida già era quella di sintetizzare in 40 minuti la motivazione del progetto Volontà, perché Assagioli prima di morire lascia questa come lascito, come eredità da coltivare per le nuove generazioni. E soprattutto perché questa cosa ci dovrebbe interessare? Perché questa sua intuizione di questo lascito finale, tutto aperto, tutto da creare, dovrebbe interessarci nel nostro quotidiano. E adesso invece ho avuto 3 minuti circa per riprendere un po' di insight che avevo rilaborato, per cui andrò a braccio inaspettatamente. Mi è mai successa questa cosa. Per cui io mi auguro che questa sera, anche approfittando di questo evento, riusciremo a fare una conversazione che conta, sulla volontà umana e sulle possibilità d'essere e di agire che si svelano se noi capiamo, distinguiamo, cioè portiamo alla luce, portiamo all'essere, la natura della volontà. Quindi a noi non interessa fare una speculazione filosofica o concreta, pragmatica, diciamo all'americana, sulla volontà, perché ci interessa l'azione o ci interessa la speculazione. No, a noi ci interessa, se ci interessa, esaminare la volontà per capire, comprendendola, quali sono nuove possibilità di vita, cioè nuove possibilità di essere e nuove possibilità di azione che si possono svelare, che altrimenti non sarebbero accadute. Quindi, che cos'è una conversazione che conta? Una conversazione che è in grado di alterare ciò che noi siamo. E ciò che noi siamo è una finestra sul mondo. Heidegger diceva, noi siamo una radura sul mondo, cioè un'apertura fatta di linguaggio, una visione del mondo, in cui le cose accadono, in cui le cose sono illuminate. Le conversazioni che contano sono quel tipo di conversazioni speciali, che qualche volta abbiamo avuto, in cui un aspetto della nostra visione del mondo è stato alterato, è stato modificato. Non abbiamo migliorato, non abbiamo cambiato qualcosa, non stiamo nel dominio del miglioramento quantitativo. Abbiamo creato una svolta, che dal latino significa alterazione del punto di vista, dal latino significa voltare lo sguardo. La svolta ha a che fare con l'alterazione dello sguardo. Ora, io con Piero Ferrucci qualche anno fa, nella genesi di questo libro, ebbi una conversazione che conta e spero di poter, al di là di quello che è scritto dentro, di poter dire qualcosa che non troverete oppure che non avete già letto, perché l'ha letto, di poter dire qualcosa di nuovo stasera, anche rispetto a questo libro. Ma prima un contesto generale. Stiamo parlando di psicosintesi, che è il metodo a cui si fa implicitamente riferimento. La psicosintesi è una visione del mondo, una visione dell'uomo, che è concepito come un essere integrale, cioè viene analizzato nella sua ombra e nella sua luce insieme, ed è soprattutto la prima scuola italiana ufficiale, cioè non importata, di psicologia umanistica, di psicologia in generale. Le altre che adesso ci sono, c'è un prolificare di scuole, sono scuole importate. A Saggioli invece creò la prima scuola fondativa italiana, diciamo la tradizione in un certo senso. Saggioli fu considerato da Jung e da Freud come il primo pioniere, diciamo, della psicanalisi in Italia. A un certo punto si distaccò, maturando l'idea appunto che la volontà era necessaria alla trasformazione dell'uomo, che l'uomo non può trasformarsi semplicemente per effetto di una buona analisi, ma a un certo punto deve intervenire con coscienza su alcuni aspetti del suo mondo interno. E quindi la volontà già era un elemento centrale della visione di Assagioli. Assagioli muore nel 1974, nell'agosto. Qualche mese prima dell'agosto del 74, a maggio, va a farsi un giro nei centri di psicosintesi italiani, continuando a dire che è fondamentale per il futuro, per le generazioni future, lavorare su questo progetto volontà di cui non dà nulla, tranne che un programma, che sono le due paginette finali del libro, un programma di ricerche affinché generazioni umane del futuro possano padroneggiare la volontà e quindi contribuire a creare un futuro che altrimenti non sarebbe avvenuto. Questa è la volontà, la capacità di inserire delle cause nel mondo interno e nel mondo esterno, cioè di far avvenire qualcosa che nel corso ordinario degli eventi, nella conversazione culturale dominante, della conversazione della mia famiglia che ho in testa, non sarebbe potuto avvenire. Questa è la volontà. E quindi Assagioli praticamente muore lasciando, tra le altre cose, ovviamente, anche questo progetto. Lui si auspica che una rete internazionale di persone faccia una serie di ricerche, mette insieme tutta la bibliografia, soprattutto italiana, francese e tedesca, che all'epoca era quella che gli interessava, dei maggiori studi della volontà, insieme, faccia una serie di gruppi, una serie di esperimenti di gruppo, e soprattutto da questi incontri lui si auspicava anche che emergessero dei leader. Poi vedremo che cosa si intende qui specificamente con leadership, che si intende qualcosa di differente rispetto al significato ordinario. Ora, questo era il progetto volontà. Io praticamente mi sono avvicinato alla psicosintesi dall'ultima parola della psicosintesi, cioè dal progetto volontà in sé, su cui non c'è scritto nulla. Tutto il resto sono andato a studiare perché mi sono appassionato a questo progetto. E per introdurlo, andando diciamo dritto al punto, vorrei cominciare con una citazione di Victor Hugo, una frase molto semplice che Victor Hugo ha lasciato scritto, e dice: non c'è nulla di più potente di un'idea che è giunto il tempo che avvenga. Non c'è nulla di più potente di un'idea che è giunto il tempo che avvenga. Questo significa che esistono particolari idee nel marasma delle idee, dell'opinione comune, della chiacchiera, quella che i greci chiamavano la doxa, cioè il chiacchiericcio, il relativismo delle prospettive. Esistono alcune idee che non provengono da noi, ma sembrano quasi emergere dalla coscienza del tempo, dallo spirito del tempo. E poi dobbiamo dire anche, tra parentesi, che ogni generazione ha la sua. Ogni generazione ha una parte della verità che contribuisce a salvare il mondo. Diceva Ortega, un filosofo, che nessuna generazione ha la risposta totale, anche se pretende di avere ragione. Ogni generazione ha un'altitudine di vita da cui si guarda il mondo. È la somma delle verità che contribuisce a cambiare prospettiva. Dunque, c'è quest'idea. Nulla è più potente di un'idea che è giunto il tempo che avvenga. Ora esistono ordini di idee che già sono avvenute, che non sono più delle possibilità. Ad esempio l'idea, la possibilità del volo, inventata praticamente dai fratelli Wright. Non perché prima nessuno avesse volato, ma il primo volo a motore sostenuto nel tempo l'hanno creato loro. Questa possibilità, questa svolta, chiamiamola la svolta del volo, non è più possibile. È già avvenuto il tempo che avvenga. Noi possiamo modificare, alterare, fate attenzione su questo punto, modificare, cambiare, alterare gli aerei, ma non più creare la possibilità del volo, è già avvenuta. Ed esistono altri ordini di idee che ancora non è giunto il tempo che avvenga, ad esempio il teletrasporto umano, perché ancora non siamo riusciti a teletrasportare la materia inerte. Al massimo, pochi anni fa, nel 2016, a Shanghai hanno teletrasportato un fotone, cioè una particella di luce, comunque materia in qualche modo, l'hanno trasportata da una città all'altra, basta. Quindi non sono riusciti ancora a trasformare, anche se hanno detto che ci riusciranno, prima del 2050 hanno dichiarato questi scienziati cinesi, ma non è giunto ancora il tempo che avvenga il teletrasporto umano, perché non è ancora giunto il tempo che avvenga il teletrasporto della materia inerte. Quindi ci sono idee che ancora sono, non è giunto il tempo che avvenga. Ci sono infine idee che è giunto il tempo che avvenga, cioè che le sentiamo tutti, le sentiamo all'interno come una sorta di palpito, che è proprio lo spirito del tempo che parla attraverso di noi in qualche modo. Allora, il progetto volontà è come se fosse, almeno nella mia visione delle cose, un'idea che è giunto il tempo che avvenga. E per andare molto velocemente su questo, che questo, come immaginate, aprirebbe una serie di discussioni molto lunghe, ci sono tre o quattro motivi perlomeno per cui la volontà è giunto il tempo che avvenga. Ve ne dico qualcuno buttato lì, ma questi sarebbero dei capitoli da approfondire a parte. La prima, il primo motivo. Noi, come sapete tutti, per essere qui siamo tutti creativi culturali di base, cioè persone angosciate che soffrono come reazione sana ad un mondo malato e che vogliono crescere e che soffrono dell'inautenticità, ecco, questo possiamo dire. Ecco, noi sappiamo bene che stiamo in un periodo di crisi e sappiamo anche, perché adesso lo si sta dicendo sempre di più, che questa non è una crisi come tante, cioè che riguarda un singolo ambito È una crisi che riguarda tutti gli ambiti dell'umano, dall'economia alla politica, dalla giurisprudenza alla filosofia, dalla logica alla fisica, dalla medicina al rapporto tra uomo e donna, all'educazione, alle famiglie, che cos'è essere uomo, che cos'è essere donna, essere vecchio, essere giovane, essere di sinistra, di destra. Quindi è una crisi sull'identità umana, quella che stiamo vivendo. È una crisi del punto che accomuna tutti i sottoambiti, diciamo, dell'umano, tutte le strutture, che è l'identità dell'uomo. Questo è in crisi, in realtà. E questa crisi, soprattutto, questo è il primo motivo per cui il progetto Volontà è attualissimo, è un'idea che ha giunto il tempo che avvenga. Noi la possiamo definire in tanti modi, ma di sicuro il più grande paradosso, uno dei paradossi più strani del mondo in cui siamo nati, in cui siamo nati, è che la gran parte dei problemi che abbiamo non sono problemi per cui la tecnologia non riuscirebbe a darci una risposta, questo ce lo dicono tutti da anni, ma sono problemi per cui, nonostante la tecnologia potrebbe risolverli sulla carta, non c'è la volontà di applicarli. Primo punto, per cui è un'idea che è giunto il tempo che avvenga. Secondo punto, quindi che tipo di volontà sta agendo dentro di noi in qualche modo? Come facciamo le scelte? Ma innanzitutto noi crediamo di scegliere, ma noi nasciamo in un contesto che ci parla, che parla attraverso di noi. L'ansia della performance, delle prestazioni che c'è oggi, ad un ragazzo mio coetaneo gli sembra una cosa che sia sua, in realtà è partorita dal tempo. Prima c'era l'isteria, perché la sessualità era il tabù, adesso l'isteria non c'è più, perché il tempo è cambiato, oggi il tabù è la morte. Non si parla solo di questo, e tutte le strategie di immortalità e le forme di violenza che sono compensazioni. Quindi, la volontà che ci agisce, che non è una volontà completamente nostra, ma fa parte di questo tempo, è una volontà molto, molto maschile. Cioè la modernità, la civiltà che abbiamo alle spalle negli ultimi 2-3 secoli, due soprattutto, ha concepito l'uomo come un essere creativo che crea il mondo, libero, che può dominare la natura, scoprire le leggi e fare quello che gli pare. Io ho pubblicato una decina di libri, potrei pubblicare un altro domani, andare su You Can Print e stampare 10.000 copie, come hanno fatto negli Stati Uniti, di un libro, cosa dovresti sapere di un uomo tutto bianco, tutte le pagine bianche, per regalarlo a Natale. Nessuno mi corregge o mi dice che questa cosa non si può fare. Per cui la volontà che noi abbiamo, cioè come esseri creatori, è una volontà molto maschile, molto creativa, molto attiva, poco recettiva, che è il principio femminile, anche nella psiche, poco recettiva, poco aperta, poco intuitiva, poco connessa all'etica della vita, alle leggi della vita, e quindi se continua con questa creazione senza ascolto, il maschile come se fosse la parola, il femminile come se fosse l'ascolto in questa metafora, che è una metafora, porterà inevitabilmente all'estinzione delle energie, inevitabilmente. Quindi il secondo punto è la volontà di cui abbiamo bisogno nel futuro deve creare un nuovo patto tra maschile e femminile, di cui le cose che sentiamo non sono altro che una manifestazione di una cosa che ci abbiamo dentro. Quindi secondo punto. Terzo punto. Un'altra interpretazione per interpretare la crisi di questo tempo, potremmo dire che, questa cosa è molto evidente, potremmo dire che la crisi di questo tempo si manifesta per il fatto che non ci sono modelli esemplari, non ci sono leader. Un ragazzo che si vuole orientare, si guarda attorno per cercare delle figure di umanità, e Costagioli diceva che per svilupparti come modello umano devi avere delle figure di riferimento, dei principi attrattori che ti fanno una sintesi esterna se tu non riesci a fare le sintesi interne. Questa cosa praticamente è quasi del tutto assente, per essere generosi. Mancano leader. Eppure su Amazon, se uno si fa una ricerca, ci sono, in una piccola categoria, non tutta, 66.000 titoli sulla leadership, e non si creano leader. Per cui la volontà, questo è il terzo punto per cui è fondamentale, mi dia che è giunto il tempo che avvenga, ha a che fare eminentemente con la leadership. Se noi stasera riusciamo a capire qualcosina del progetto Volontà, della volontà, riusciamo a sviluppare internamente le premesse della leadership come naturale espressione, senza artificiosità. E perché questo? Perché la volontà, che come diceva Rollo May, uno dei padri della psicologia umanistica, in inglese si dice will, lui diceva, è la stessa parola per utilizzare, per creare il futuro. Will. Cioè nell'etimo della parola will, e non soltanto inglese, c'è la connessione tra volontà e futuro, tra volontà e destino, tra le decisioni e la destinazione in cui arriviamo. E poi diciamo che un ultimo punto, per cui se al mondo mancano leader, evidentemente noi stiamo utilizzando una volontà, una configurazione della volontà dell'ego in qualche modo, perché poi noi abbiamo sempre una volontà, ma a seconda di come stiamo cambia la configurazione, cambia ciò che vuole. Voglio diventare immortale, voglio esprimermi, voglio essere capito. Sono differenti configurazioni del volere, dei diversi modi di essere me. Quindi evidentemente i leader mancano perché queste configurazioni dell'intenzione hanno una specie di seme che non permette l'emersione di un individuo impegnato in una causa più grande di sé. Hanno qualcosa che di spurio, come dire, se partiamo dal presupposto che tutti noi siamo così in fondo, al nostro meglio. Ecco, questi 4-5 motivi, a memoria, avrei avuto qualche citazione in più se avessi dentro le foglie, per aprire questo terreno del perché la volontà ci dovrebbe interessare. E quindi, per riassumere questi punti, per creare già una piccola sintesi, qual è la connotazione unica della svolta di questo tempo? Questi punti, che cosa ci stanno dicendo? Qual è l'implicazione? Qual è l'implicazione tra la crisi del mondo e la possibilità, forse, perché siamo tutti cinici e rassegnati, che è il mood fondamentale dell'uomo, cinismo e rassegnazione. Qual è la connotazione unica di questo tempo? La connotazione unica di questo tempo è che la svolta umana dalla crisi, se c'è, se ci sarà, deve essere liberamente voluta o non avverrà. Questo è il messaggio. In altre epoche, in altri spirito del tempo, manifestazioni dello spirito del tempo, potrebbe non essere stato così. Oggi, questa è l'intuizione di Assagioli, non solo, se ci deve essere una svolta, una trasformazione di che cosa è l'essere umano, e quindi poi riscrivere tutti gli ambiti in crisi, questa cosa deve essere voluta, non può accadere, come diceva Gurdjieff, meccanicamente, automaticamente. Non può accadere in automatico. Non può accadere neanche migliorando. Non può accadere neanche cambiando. La differenza tra il paradigma del miglioramento e il paradigma della svolta, di quella che anticamente si chiamava la metanoia, cioè il cambiamento della mente, l'andare al di là della mente, è che il miglioramento vuol dire aumentare, cambiare certi aspetti di me, senza cambiare il modo in cui vedo il mondo, senza mettere in discussione come vedo il mondo. La svolta, la trasformazione presuppone un cambio del punto di vista. È la scatola all'interno della quale ci sono gli elementi che compongono la mia personalità. Non sono gli elementi fisici, economici, cioè quantificabili di me. Sono proprio due domini diversi. Per migliorare, stiamo andando bene, tra virgolette, bene, da un certo punto di vista. Ma la svolta in ogni caso è inaccessibile, se non con un atto di volontà. Ora, tutto questo discorso che ho cercato molto di semplificare, perché poi questo discorso ha diverse implicazioni, perché ci dovrebbe riguardare? Questa è una domanda molto molto importante. Perché mi dovrebbe toccare, se già non mi ha toccato in qualche modo? Allora, noi avevamo detto che il progetto volontà va compreso nella sua relazione con lo spirito del tempo. Ma questa interrogazione sullo spirito del tempo, cioè su qual è la missione del mio tempo, qual è la missione della mia generazione rispetto alla generazione di mio padre o la generazione dopo di me, queste non sono domande, diciamo, filosofiche. Sono domande che vanno fatte e interpretate per comprendere chi sono. La mia essenza ultima è di essere una partecipazione alla vita posta, non ho scelto io di esserci, data da qualche cosa che mi ha buttato come parte di un gioco, in qualche modo, o almeno poi possiamo anche discuterne, perché ovvio questa è una fede come qualsiasi altra fede, nessuna su nessuna ce la prova. Questo è il presupposto da cui parte la psicosintesi, è la forma di fede sull'uomo da cui si parte, questa è la premessa di quello che c'è dietro quello che sto dicendo. Ma se noi partiamo da questa fede e siamo dei posti dalla vita, dei partecipanti, vuol dire che la nostra essenza la scopriamo nel rapporto al nostro tempo. E questo vuol dire che comprendere la mia essenza, ciò che sono, significa comprendere meglio qual è il contesto in cui abito, il mondo in cui mi sono ritrovato a vivere. Se io comprendo, se io voglio capire meglio la mia essenza, la mia chiamata, la mia missione ontica dell'essere, non della personalità, devo interrogarmi sulla natura del mio tempo, di come io però anche la interpreto, il mio tempo. Goethe, diceva che l'uomo, per diventare un grande uomo, e lui è stato considerato da Saggioli, Emerson, Nietzsche, tutta una serie di Steiner, eccetera, cioè l'esempio del grande uomo, primo ministro, scrittore, eccetera, l'uomo completo, lui diceva che l'uomo vive una vita pienamente umana se scende fino in fondo nello spirito del suo tempo e ne risale, fino in fondo alla contraddizione e ne risale. Quindi, che significa questo per me? Che cosa devo fare per scoprire la mia identità, la mia missione? Allora, un segreto, una porta d'accesso, diciamo, implicita, sconosciuta per farlo, è porsi una semplice domanda, ma molto molto profonda. La domanda è questa: qual è la principale disarmonia? Qual è la principale disarmonia che tu di sottofondo senti? La principale inquietudine o disarmonia che tu di sottofondo senti in relazione al tempo in cui sei stato gettato? Se ci dovesse, ci sono tante disarmonie, ma se ce ne dovesse essere una, qual è la disarmonia più importante di tutte? La mia, ad esempio, la mia soggettiva, è che mi ha sempre colpito questa cosa che gli orientamenti, le religioni, le scuole, eccetera, promettono di tutto, ci sono persone che ottengono risultati, persone che sono buone, eccetera, ma quasi nessuno è se stesso. E mi ha sempre stupito questa cosa, cioè che l'essere umano non è se stesso, è qualcun altro, mette davanti qualcun altro. Nella psicologia religiosa questo si chiama abdicazione, cioè metto davanti a Saggioli, mio padre, i filosofi, pur di non ricevere un giudizio direttamente, e poi mi lamento che non riesco a esprimermi, anche oggi. Questa è la mia principale disarmonia. Per un'altra persona potrebbe essere il modo in cui l'uomo tratta gli animali, o il rapporto tra uomo e donna, tra maschile e femminile, il fatto che noi non possiamo esprimerci, che per la sopravvivenza non possiamo vivere una vita piena. Queste sono alcune delle risposte che ho sentito. Ma la risposta alla domanda, quale io sento nel profondo che è la principale disarmonia di questo tempo, è una parte della tua verità. Indubbiamente, perché poi la domanda successiva sarebbe: ma da dove proviene questa sensazione? Perché dici proprio questo? E tu dai una risposta e la domanda è perché? E perché? È come se si raggiungesse una specie di nucleo energetico. Perché sì? Perché lo so che significa. Perché l'ho vissuto. L'altra grande domanda pratica, diciamo, per iniziare a orientare la volontà, farci delle domande che ci connette allo spirito del tempo, è: qual è la principale anomalia di questo tempo? La definizione di anomalia è un elemento che stona rispetto al modello preventivato, al modello raccontato. Qual è la principale anomalia? Per esempio, nel mio ambito, che da una decina di anni, da quando mia madre è stata male, è stata, diciamo, la formazione, la trasformazione. La principale anomalia, proprio una cosa che non mi ha fatto dormire la notte, è che la parola d'ordine, diciamo, di quest'ambito è consapevolezza, come se la consapevolezza di per sé guarisse, portasse, senza arrivare all'ultima delle parole della trasformazione. La prima è ovviamente la consapevolezza, se non sei consapevole non hai possibilità alternative, ma l'ultima parola della trasformazione è la responsabilità. E questa cosa è praticamente rimossa nella vita delle persone, almeno della gran parte delle persone che io incontro, e da me stesso incluso. L'ultima parola della trasformazione tu cambi quando diventi causa in materia di quella cosa di cui ti lamentavi. Sei sempre cambiato così. E questa cosa, diciamo, è il grande non detto di molte delle discipline che si propongono di migliorare la condizione umana. Quindi, in quest'altra risposta, qual è la principale anomalia? Qual è l'elemento che storna? C'è un'altra parte della mia verità. E queste sono due domande molto molto profonde che iniziano a riconnettermi a quella che in psicosintesi possiamo chiamare la volontà transpersonale, cioè la voce di un altro me, di un me più profondo che parla attraverso di me. Un io originario. Quindi possiamo arrivare finalmente a una sorta di definizione della volontà. Che cos'è la volontà? La volontà la possiamo definire in diversi modi, la possiamo comprendere in differenti modi. Ve ne do diversi, i più potenti che ci sono, secondo me, i più chiari, quelli che muovono di più. Allora, il primo, la definizione di volontà che dà Saggioli nel suo libro principale, L'atto di volontà, è: la volontà è l'aspetto dinamico della coscienza. Cioè significa che io ho una sensazione di essere me stesso. Questa sensazione di essere me stesso, che chiamo io, ha due aspetti. Un aspetto, per così dire, statico, cioè l'essere presente, l'essere un io che, anche se cambiano gli eventi, cambia la storia, rimane l'identità, idem, ciò che è uguale a se stesso. E poi, dice Saggioli, ha anche un aspetto dinamico questa identità. C'è una specie di braccio, la volontà è il braccio dell'io, si dice così. Cioè, quest'io che vede, poi prende posizione. Quindi è questa la volontà, seconda definizione. La volontà è l'aspetto dinamico della coscienza, prima definizione. Seconda, la volontà è il potere umano di poter prendere posizione di fronte alle cose. O meglio, è il potere umano di poter selezionare una possibilità tra molte possibilità. Mi rompo la gamba, quale possibilità di senso sceglierò di dare a questo? Quale possibilità di senso mi fa essere più me stesso? Cioè mi auto-identifica, mi potenzia, poi mi diciamo in psicosintesi, perché questo poi deve essere il criterio. Però intanto, quale possibilità di senso do? Ho un ventaglio, una roulette, quale seleziono? Questo è il secondo punto. Terzo punto, quindi, aspetto un amico dell'io, capacità di selezionare una possibilità di senso, d'azione, tra tante. Terzo modo di definire la volontà, di capire la volontà, è la capacità di inserire delle cause nell'evoluzione dell'universo. Questa sembra una definizione mistica, in realtà viene da un fisico quantistico. La volontà è la capacità dell'uomo di produrre cause. Ad esempio, se io dicessi ad una persona stasera: ci vediamo domani per un caffè per parlare di questa cosa alle 10, e la persona accetta, questo evento, che è la promessa, crea una realtà che altrimenti non sarebbe avvenuta. Questo lo può fare solo l'uomo, perché è un prodotto dell'autocoscienza. Le formiche, che non hanno l'autocoscienza, non hanno tutti i prodotti dell'autocoscienza, quindi non hanno la logica, non hanno l'arte, non hanno la religione, non hanno l'autocoscienza della morte, non hanno neanche questo. Cioè, questo potere umano, che a noi ci costa l'angoscia di morte, perché siamo l'unico essere che ogni momento sa che finirà, questa è l'angoscia di fondo, questo è il prezzo da pagare, l'autocoscienza costante della morte. Ma il potere che mi dà è di poter produrre delle svolte o di poter inserire delle nuove cause. Lo facciamo raramente, ma la potenzialità è sempre presente. è una possibilità non nel senso che sta fuori, nel senso che è sempre sottostante ad ogni momento. Questa, quindi, la volontà è il potere di introdurre delle cause nella vita. E l'ultima, diciamo, definizione, modo di vedere la volontà, è la capacità di creare futuri che altrimenti non sarebbero avvenuti. La volontà è la capacità dell'uomo di creare un futuro che altrimenti non sarebbe avvenuto. Gandhi voleva fare l'avvocato ricco a Londra. Prende un biglietto del treno per corrispondenza e sta su questo treno viaggiando, facendo un viaggio di lavoro. Gli dicono che il biglietto non è valido. Lui dice: l'ho preso per corrispondenza. No, non puoi, è la pelle scura, devi andare dietro. No, posso, sono un avvocato. Allora, sai che facciamo? Ti buttiamo giù. Lo buttano giù. Lui sta su questa sua disarmonia, su questa sua anomalia, che è la sua chiamata poi, che è: perché il diritto non serve a tutelare la dignità umana? Ci sta per un po' di giorni e poi prende una risoluzione, che l'impegno fondamentale della sua vita deve essere questo. Questa è una promessa che ha fatto a se stesso. Mio padre, per esempio, quando mi raccontava che quando ha deciso di essere padre, perché non si sentiva adeguato, si è fatto tutta la passeggiata di Caraccio a Mergellina, e stava sugli scogli e ha deciso di essere padre. Infatti poi è stato un buon padre, secondo me. Ha avuto questa, nel suo piccolo, questa capacità di produrre un evento con se stesso, cioè di farsi una promessa, quindi creando un futuro che altrimenti non sarebbe avvenuto. Ora, io mi avvio alla conclusione, che quanto... da quanto sto parlando? Poco. Sì, però il dibattito è la parte sempre più interessante del monologo. Nel monologo pensiamo le cose sono facili, dette così. Allora, questa volontà, questa capacità di produrre delle cause, ha tante implicazioni. Guardate, spero che nel dialogo possano, nelle domande, negli scambi, nelle critiche, possano emergere delle risposte più specifiche, perché non ve le posso dire tutte. Ve ne dico una, per esempio, che nel momento, una delle varie implicazioni della volontà, nel libro c'è una scheda proprio di lavoro su questo, che adesso cerco di assumervi. Io ho un certo modo di essere quotidianamente, un mood, un atteggiamento. Ognuno ha i suoi mood preferenziali. I miei sono appassionato, entusiasta, e poi quelli negativi, diciamo, rassegnato, disilluso. Ok? Questi modi di essere, su cui noi vorremmo avere un potere di solito, come facciamo ad averne un potere che non sia artificiale? Per esempio quello che altre scuole dicono: modifica il corpo, respira, cioè, queste sono tutte cose esterne, ma dall'interno del mondo delle cause, della coscienza, come posso avere un accesso a questo modo di essere? Sapendo, e questa è una cosa pazzesca, se uno la capisce e la usa come procedimento interno, sapendo che il mio modo di essere non è casuale. La sua causa, qualsiasi esso sia, sta in un'intenzione che io ho, in una forma del mio impegno inconscio, che io non mi sto mettendo. Se ad esempio io stasera venissi qui e mi sentissi particolarmente agitato, particolarmente spaventato, è umano, va bene, non ci giudichiamo, va benissimo tutto quello che si dice, bisogna prenderne consapevolezza, responsabilità, però se io voglio avere accesso a questo modo di essere, io devo sapere che in realtà il mio intento di fondo è quello di riuscire, essere approvato, fare bella figura con Annalisa, costruire una carriera, ma di sicuro non è un intento più grande di me, così grande, che tutte queste questioni che io ho nominato diventano cose molto relative, perché la questione, diciamo, è un'altra. Quindi, questo che significa? Che se io mi ritrovo in un modo di essere scoraggiato, privo di energia, abbattuto, la prima delle domande che io mi devo fare è: la prima è, il modo di essere in cui mi ritrovo mi soddisfa? Se la risposta è no, la seconda delle domande che mi devo fare: ma sono realmente quindi impegnato in una causa di valore, in una... qual è la mia intenzione adesso? Sono veramente dato da una causa più grande di me? La risposta non può essere sì, le risposte devono essere corrispondenti. Se il mio modo di essere mi piace ed è energico, io sono allineato all'intenzionalità più profonda che ho. Ma se il mio modo di essere mi soddisfa, a volte nei gruppi emerge, no, non mi soddisfa, allora la tua intenzione è qualcosa di più grande di te. Sì, ma come sì? Ma come si fa a dire sì? Ma parliamone di questo sì. Le tue risposte devono essere corrispondenti. Il mio modo di essere è il prodotto di un impegno. Allora, qual è il mio impegno? Essere riconosciuto, va bene, allora ce lo accettiamo, come si dice in questi ambiti, diciamo, persino nella New Age, ce lo accettiamo perché lo depotenziamo, ce ne assumiamo la responsabilità, senza giudicarlo. E la domanda successiva, e questa è una domanda che produce leadership, perché la leadership ha a che fare con l'intento oltre che con il futuro, è: e quale potrebbe essere una causa, un'intenzionalità alternativa a questa? Tra le varie possibili intenzionalità che io posso avere stasera, quale potrebbe essere? Esprimermi, far esprimere, contribuire, creare una conversazione significativa per entrambi, le parti in causa, quale? Tutte queste possibilità che io ho di fronte, e quando ne selezionerò una, questo avrà un impatto sul mio stato, perché il mio stato è sempre il prodotto di una volontà, di un'intenzionalità. Questo è un modo molto molto potente, molto naturale anche, di lavorare su di sé. Spero di non essere stato troppo filosofico, ho cercato di fare, di essere più appassionato che potevo per sminuire tutta la parte del linguaggio che è importantissima, le parole sono importanti. Allora, io vorrei iniziare, vorrei avviarmi alla conclusione dandovi un altro paio di idee, che sono che questa volontà che ha a che fare col futuro, con la creazione del futuro, abbiamo detto, con un futuro che sia nostro, la mia forma di volontà si esprime in un futuro a cui io voglio appartenere, non ad un futuro a cui io non voglio appartenere. Questa volontà questo futuro è un particolare futuro, è un futuro che funziona per tutti. Questo futuro della volontà integrale dell'uomo completo non è un futuro qualsiasi, ma è un futuro che funziona per tutti. Uno diceva, potrebbe dire, ma non sono tanto d'accordo. E io vorrei, oserei asserire che non c'è tanto da essere d'accordo. È un funzionamento fenomenologico, cioè indiscutibile nella coscienza. Cioè, se io creo dentro di me, poi uno può fare come gli pare, ma avrà certi effetti, mondo delle cause e mondo degli effetti. Se uno crea dentro di sé un futuro per cui alcuni possono esprimersi e altri no, ad esempio, cioè un futuro dove non tutte le questioni di interesse fondamentale di tutti gli esseri umani sono coinvolte, sono incluse, succede questo, succede che per adesso mi va bene, oggi e domani e dopodomani, ma succederà prima o poi che arriverà il momento in cui anche io non mi potrò esprimere. Perché avrò fatto quell'atto, quel pensiero, quell'intenzione, quel peccato, quella cattiveria non risolta, che so, perché sono autocosciente, altra fregatura come la morte, e che quindi non mi dà il diritto di esprimermi come vorrei. Quindi, questo è un concetto un po' più articolato, lo so, ma volevo accennarlo per qualcuno per cui può essere un po' più incisivo. Il futuro di cui stiamo parlando, che noi creiamo, e in cui c'è la mia disarmonia, la mia anomalia, ci sono tante cose in questo futuro, ne ho accennato qualcuno, ma di sicuro uno dei tratti che ha è che funziona per tutti, tutti hanno il diritto di essere, tutti hanno il diritto di esprimersi, tutti hanno il diritto di contribuire, ma non perché voglio essere buono, perché dare il diritto a tutti è l'unico modo per assicurarmi che il diritto io non me lo tolgo, è l'unico modo, Husserl direbbe, autoevidente, di evidenza intrinseca alla coscienza, per cui non me lo posso togliere se l'ho creato così. E questa è una cosa molto molto potente, perché vuol dire che se io faccio una conferenza e mi sento agitato, vuol dire che il futuro in cui sto vivendo o è un futuro in cui io mi esprimo e le persone no, perché è arrivato il mio momento, come si dice a Napoli, oppure è un futuro in cui io devo essere riconosciuto, devo dare valore, devo contribuire alla città, al centro di Bolzano, eccetera eccetera, e io non mi posso esprimere, per cui non mi sento vivo, inizio a leggere perché non ho incluso il diritto alla mia espressione. Quindi questo vuol dire che quando ci ritroviamo ad essere dei potenziati, poco vitali, poco potenti, il futuro in cui stiamo vivendo non è sufficientemente grande da includere le mie questioni e le questioni degli altri. E questo vuol dire avere un grande accesso a sé e agli altri. E chiudo con una piccola storiella, che questo futuro che funziona per tutti, a volte c'è l'obiezione che riguardi poche persone lette o che hanno studiato, che non riguardi tutti. Questa è un'altra grande, un altro grande ostacolo della cultura dominante. Sono pochi quelli che fanno la differenza, pochi saggi. La gran parte di noi non abbiamo molte possibilità, non abbiamo il potere a qualsiasi livello, interiore e esteriore, per poter influenzare le cose. Questa è parte del cinismo, della rassegnazione. Ma uno dei messaggi del progetto Volontà è che, poiché la vita è interconnessa, e non soltanto la decisione di un capo politico, ma anche un gioco di foglie, un gioco di un bambino, diciamo, ha un impatto in qualche modo in questa realtà che si sta creando, ogni vita conta. Ogni vita conta. E per realizzare la cosa che più ci interessa, che sostanzialmente è esprimerci e cambiare la qualità della vita di qualcuno, che possibilmente ha un problema simile al nostro, non è richiesto null'altro che un po' di coraggio, come si dice nel libro. Lo possono fare tutti, anche se nella visione dominante c'è chi può e chi non può. L'ultima storiella, poi abbiamo mezz'ora di dibattito, è questa storia che quando la mia famiglia paterna è cresciuta in una zona popolare di Napoli, la zona di Montesanto, molto popolare, molto povera, a differenza della famiglia di mia madre, e mio nonno, che portava le bombole, lasciava ogni mattina 2000 lire sul tavolo a mia nonna per portare avanti quattro figli. E quindi c'era tutto questo aspetto anche di sacrificio, di rigore, di dignità napoletana, di questi quartieri, eccetera, eccetera. E mio nonno anche era una persona un po' che amava i figli, ma doveva dimostrarsi come un padre che non ha affettuosità, che le affettuosità sono cose da deboli, eccetera, eccetera. Mio padre stava facendo l'istituto tecnico industriale e gli servivano due libri di elettronica, molto costosi, quarto, quinto anno di liceo. Gli disse a mio nonno: papà, mi servono i libri e costano questo. Mio nonno ebbe una discussione: se noi non ce l'abbiamo, questi soldi, devo andare a chiedere i favori, eccetera, eccetera. E in maniera burbera lo cacciò. E mio padre trovò i libri sul tavolo un po' e seppe che mio nonno, di nascosto, perché si vergognava, era andato a prendere dal baule il vecchio ottone di famiglia ed era andato a venderlo a porta a Montesanto ai suoi clienti a cui portava le bombole. Mio padre, 20-30 anni dopo, butterà tutti i libri del liceo, quando ci trasferiamo, tranne quei due libri di elettronica, che li mette in una credenza per ricordare a me e mio fratello. Mio fratello è partito da Napoli alla Cina, a Pechino a piedi, adesso sta in Georgia con una telecamera e c'ha 26 anni. Il valore della dignità, dello studio, di farsi da soli in qualche modo. Questo è un atto di volontà che fa la differenza. Uno dei pochi atti di volontà della vita di mio nonno, ma che ha avuto un impatto enorme in tutta la nostra famiglia e anche su di noi. E contribuisce a tutta una serie di dinamiche per cui io sto presentando un certo tipo di contenuti, in un certo modo, eccetera, eccetera. C'è una frase finale con cui vi lascio e poi apriamo il dibattito. È una frase che viene da un antichissimo testo ebraico, Le Massime dei Padri si chiama, un antichissimo testo dell'era mishnaica, che dice, e questo racchiude un po' il senso della volontà integrale di cui abbiamo parlato, una volontà che mi fa essere me, non mi fa perdere la mia identità, la mia autocoincidenza con me stesso, non mi fa uscire fuori, ma che tutela l'identità dell'altro insieme. Questo testo dice: se io non sarò per me, chi sarà per me? Ma se io sarò solo per me, allora chi sarò io? Ci siamo. Come faccia se vuole usare. No, penso che ci sentiamo lo stesso. No, è più che altro, salve, chiedo per la registrazione che facciamo nella serata, che mi fa piacere. Allora. E secondo lei, come agisce l'inconscio sulla volontà? Come agisce l'inconscio sulla volontà? È determinante, questo è il problema per cui noi non riusciamo ad avere una volontà autocoincidente. Cioè se io non avessi elementi inconsci impropri dentro di me, cioè spuri, la mia volontà sarebbe conforme a ciò che sono. La mia volontà sarebbe una mediazione dell'essere, della vita nell'esistente, cioè nella storia. La mia vita storica sarebbe un investimento di identità. I miei vestiti, i miei libri, le mie relazioni, il modo in cui interagisco con lei sarebbero la mia identità che si manifesta nella storia, ma non è così, perché nel rapporto tra me e me ci sono degli elementi spuri, inconsci. Ah, ma io posso andare male, ma forse questa cosa non la posso dire, però se dico questo, eccetera, eccetera. Quindi l'inconscio è determinante perché è ciò che devia la volontà. Uno, due, questo significa che ogni volta che io non sono me stesso, questa è un'altra delle cose che volevo approfondire prima. Ogni volta che io non sono me stesso mi devo chiedere qual è la mia inautenticità inconscia ora che mi sta bloccando questo canale. Qual è l'elemento spurio? Qual è la mia inautenticità? Che cos'è la mia inautenticità? Una responsabilità che non mi prendo, una cosa che non mi dico, un'intenzionalità che non è del tutto mia. Non so se è parte. Vai. Ma a suo avviso l'inconscio agisce solo sul passato? Sul futuro. Ah, sul futuro. Noi non siamo determinati dal passato, siamo determinati dal futuro. Il nostro problema, questo è un discorso che va contro tutti gli stereotipi e lo affermo con convinzione, cerco di giustificarlo in diversi libri. Allora, il passato ci sembra che ci determini perché noi proiettiamo il passato nel futuro. Noi crediamo di essere angosciati nel futuro. Io ho avuto mia mamma depressa che ha tentato il suicidio. Guarda, le dico subito la cosa e adesso la prendo in giro, perché ogni volta che lei dice sono un po' angosciata dal futuro, io dico mamma, allora, ma perché se lo conosci dimmi pure quali sono i numeri della lotteria. Lei fa no, ma non lo conosco. Allora di che sei angosciata? Del futuro. Ma il futuro non lo conosci. Fa, oh mio Dio, che cos'è? È un'immagine. E l'immagine chi la crea? La creo io. E dove la metti? Nel futuro. E quando l'hai fatta? Quando mi immaginai che mi venne una malattia, quando tuo fratello disse, ha scritto su Facebook il post che sta nel deserto, io ho paura che... Cioè noi prendiamo le immagini e le proiettiamo nel futuro. Quindi l'inconscio agisce sull'uomo in maniera, non so se ci capiamo, teleologica, cioè dal futuro al presente. Io ho avuto, diciamo, un piccolo trauma, sono stato preso in giro a 12 anni. Lì ho deciso che mai più mi sarei espresso. Che cos'è il trauma che mi ha traumatizzato? Sto facendo un esempio, però guardi, è il trauma che mi ha traumatizzato o è la decisione che da quel momento in avanti, espressione uguale morte, umiliazione? Noi proiettiamo il passato nel futuro costantemente. Quindi se una persona, una leadership, come dice lei, no? Volesse agire sul tipo far confluire un parsec con un lustro, agirebbe in che modo? Non ho capito la domanda. Per collegare queste due frazioni temporali, su che forza si dovrebbe basare, secondo lei? Ok, non so se ho capito la domanda, però le posso dire questo. Sì. Le posso dire questo, che forse la risposta più interessante che le posso dare è la domanda, che il modo pratico per agire sul futuro è questo. Sono proprio due domande semplici, che lo estraggono però. Sotto sotto, che cosa mi aspetterò che succederà? E tu lo estrai, scusami se ti do del tu, diamoci del tu, sennò... perché poi il tu mi permette di parlare meglio anche in generale, senza fare il voi, questa cosa che limita l'impatto monetario. Che sotto sotto, che cosa ti aspetti che succederà? Se nulla di inaspettato dovesse accadere, succederà questo. La seconda domanda è... E quando l'hai deciso? Cioè trasformare la proiezione del futuro, o dell'inconscio nel futuro, o del passato nel futuro, come vogliamo, in una decisione. Perché quando il futuro entra nella categoria della coscienza chiamata decisione, lì hai una chance per poterla revocare, perché sta sotto il tuo dominio. Se lo chiamiamo trauma, se lo chiamiamo evento, le chance sono buone, o quantomeno sono limitate. Qua ci vorrebbe qualche psicoterapeuta con cui parlare, ma sono quantomeno limitate, perché il trauma in sé è connotato, ma l'interpretazione no, è creata al 100%. Avevi parlato di quanto la nostra parte spuria interviene su di noi, e quando parlavi, se io invito qualcuno a prendere un caffè, crea un cambiamento. Allora io tutti i giorni invito qualcuno a prendere un caffè, però agisce, raramente agisco in coscienza, molto spesso agisce questa mia parte spuria. Allora mi interessava sapere quant'è la percentuale in una giornata media dove in realtà posso agire con volontà o riesco ad agire con volontà rispetto alla mia giornata. Allora guarda, questa è un'ottima domanda, più che la percentuale, perché la risposta sulla percentuale è varia per ognuno in base al periodo, quotidianamente, in base ad una serie di fattori, eccetera. Però la domanda è interessante, perché la cosa di cui vorrei accennare è questa: come misurare questa purificazione dagli elementi spuri? Allora, detta proprio in breve, io direi che ci sono due criteri. Un criterio esterno, cioè di funzionalità. Cioè, tutte le aree di cui mi lamento, o in cui il problema si ripete, o che diminuiscono di funzionalità, sono aree in cui io diminuisco di intelligenza. E poiché ciò che sono è la vita intelligente, che riesce a decifrare le circostanze con lucidità, quando le cose mi vanno male vuol dire che lì si stanno inserendo gli elementi spuri. Quindi tutte le aree della mia vita in cui io ho mancanza di funzionalità, che ne so, il ballo, l'economia, le formalità, i rapporti sociali, sono aree da purificare. Di sicuro questo è un criterio. E il leader quello che fa è che pian pianino si assume la responsabilità di sempre più parti di mondo, prima di tutto della sua vita. Espande la responsabilità sul suo mondo e poi esterno, anche quello di tutti. E l'altro criterio è quello dell'inquietudine, che è un segnale molto positivo in qualche modo, già è molto essenziale l'inquietudine, l'inquieto è già un autentico, però ci sono diversi tipi di inquietudine e, diciamo, laddove io sento delle grosse perdite di vitalità, queste sono le tre parole: vitalità, connessione, potere esistenziale, cioè mi sento una vittima, questo è il senso interno che mi dice che ci sono degli elementi spuri. Perché? Perché quando io sono coincidente con me stesso, io sono potente, cioè mi sento capace, non mi sento inadeguato a vivere quando sono me stesso, potente, vitale e connesso. Bene. Io non ho dubbi che la volontà sia una condizione necessaria per fare le cose, però il problema per me è che tante volte non è sufficiente, perché ci sono le volontà di tutti, ci sono tutte le volontà di tutti che sono spesso conflittuali, e quindi quello che è, quali sono gli spazi minimi o in cui si può esercitare la volontà, trovare soddisfazione nel portare a compimento e provare ad allargare questa diciamo, soddisfazione di trovare efficacia nelle proprie volontà, nelle proprie anche risultati conseguenti a questo. Perché se io mi vado a impegnare nel conflitto con le altre volontà, anche se le volontà dominanti sono potenti e purtroppo anche in crisi, ma comunque vincenti, finché non crolleranno, gli spazi veramente di libertà di esprimere la propria volontà, i propri desideri, perché certe volte mi sembra che sia più potente addirittura trovare la possibilità di esprimere i desideri, capire i propri desideri, perché è una condizione, una premessa per poi esprimere la volontà, perché creo un mio mondo e dopo posso trovare anche le condizioni per confrontarmi con gli altri e non subire possibilmente. Scusate che un po'. Certo, allora. Allora, mi permetti di dire una cosa che è importante dal punto di vista dell'atteggiamento psicosintetico, da questo punto di vista. Allora, detta in una battuta, senza andare troppo per le lunghe, per la psicosintesi il mondo e per il mondo qua intendo soprattutto gli altri, le volontà degli altri, è il mio karma. Il mondo è il mio karma. Cioè, dovunque fuori di me sono infastidito, non mi piace, non ce la faccio, non funziona, non va bene, mi lamento, è una parte di io che non ho ancora attraversato e conquistato. È come se io sono io, come dicevano i filosofi, e tutto ciò che non sono io è il non io, no? Io sono il vostro non io, io sono un oggetto della vostra storia, di cui voi siete il personaggio principale, e viceversa. Voi siete un oggetto della mia storia, della modalità solita, diciamo, di funzionamento, non in tutte le modalità. E quindi, in questa contrapposizione tra me e il mondo, tra me e gli altri, tutti gli attriti, e anche gli attriti di volontà, sono degli aspetti della mia coscienza che io non ho ancora conquistato. E allora, questo mi fa capire che tutte le persone che odio, tutte le persone che mi stanno antipatiche, e tutte le cose di attrito che io provo, sono reami, parti della vita in cui la mia identità non è ancora riuscita ad esserci. E infatti quando sto lì, sto fuori di me, sono sbilanciato. E questo ci permette anche di interpretare, quindi io mi devo prendere la responsabilità totale, proprio come parte dell'atteggiamento, prima ancora poi di entrare nel discorso del rapporto tra le singole volontà. Poi apre tutto un discorso che adesso qui adesso accennerò, poi andiamo avanti. Prima di tutto, come atteggiamento, io mi devo prendere la responsabilità di tutti gli attriti, di tutti i rapporti. La frase cristica, per esempio, io ho vinto il mondo, vi dice Cristo, psicosinteticamente, io ho vinto il mondo significa non c'è nessun aspetto del mondo, nessun essere umano in cui io, nel confrontarmi, non ritrovo me stesso, in cui mi lascia, come dire, diminuito. Io ho vinto il mondo vuol dire che la mia coscienza ha permeato tutti gli ambiti, anche gli ambiti relazionali possibili, per cui ovunque sono a casa, ovunque sono me. E questa che per Cristo, diciamo, è stata una quasi il punto di partenza, direi, senza entrare in questioni, diciamo. Per la psicosintesi è un'opera, per la Sagioli è l'opera della vita, diciamo, da continuare fino all'ultimo istante. Primo punto. Secondo, quindi, la responsabilità dei rapporti. Secondo punto, le volontà, e questo è un argomento scomodo, le volontà a volte sono contro di me. Cioè, le intenzionalità dell'altro, se io le faccio entrare dentro, non necessariamente sono affini e supportano la mia intenzionalità di natura. Gli altri non hanno per forza l'intenzionalità che io debba essere me stesso. Possono avere altri progetti. Per cui parte di quegli elementi spuri di cui parlavamo prima sono voci, o meglio volontà, che io non è che devo eliminare, ma che devo stare attento come una sorta di pulizia psichica e polizia psichica in qualche modo, per non farle entrare a minare il rapporto tra me e me. Cioè la mia volontà deve essere pulita. E quando io mi riapproprio, diciamo, di queste volontà che io ho incorporato degli altri e faccio una serie di tagli, ricordiamoci che nel buddismo Buddha ha insegnato che noi ritroviamo noi stessi non aggiungendo ma facendo tagli da ciò che non siamo, io devo fare anche tagli di intenzionalità. E devo dire, sta cosa della performance deriva dalla scuola e quindi dalla società, sta cosa di essere così deriva da papà, questo deriva da questo, questo a 13 anni era il mio modello, il ragazzo più carino della scuola, che io volevo essere come lui, e faccio una purificazione delle volontà spurie. E su questo siamo tutti dei principianti, tutti abbiamo volontà spurie. Quando, nella misura in cui io faccio questo internamente, la volontà, diciamo, conflittuale all'esterno mi pesa molto meno, perché non ha più quella presa che mi reinnesca quelle volontà che mi portano via da me stesso, per cui devo dire no, non mi permetterai ancora una volta di togliermi questo. Ma perché io ti ho fatto entrare? L'errore sta nel fatto che io ti ho fatto entrare in un momento di debolezza. Ecco, questi sono due elementi. Sì. Poi 5 minuti credo è più lento. Cioè. Ero interessata perché prima, se non sbaglio, hai detto che il modo in cui viene intesa la leadership e l'essere leader in senso, diciamo, assagioliano, secondo questo studio, è un po' diverso da quello che siamo abituati ad intendere. Mi interessava questo discorso perché siamo pieni, no, anche di esempi di leader, come dire, negativi che hanno portato dei cambiamenti non proprio positivi. E anche perché una sensazione che io ho è che ancora più del leader che guida, no, il gruppo è, per quanto ce ne sia bisogno, lo riconosco, è come un movimento collettivo, no, che deve poter avvenire forse in quest'epoca. Certo, sono totalmente d'accordo con questa riflessione. Certo, è una leadership che è un processo di adultità dell'uomo, dell'umanità. Infatti una delle fonti di questo libro è proprio un libro di Korzybski che si chiama L'età adulta dell'umanità. Quindi noi stiamo diventando più umani, stiamo diventando più adulti, quindi siamo chiamati tutti a diventare dei leader, in un certo senso. Poi non tutti lo colgono, non tutti sono interessati, non tutti possono essere obbligati, perché ognuno si trova ad un'altitudine a certe necessità. La leadership, cosa intendiamo noi con leadership dal punto di vista, diciamo, psicosintetico? Allora, innanzitutto, la vecchia leadership a cui tu fai riferimento ha una nozione di potere in sé. Il vecchio leader cerca il potere in sé e accumula il potere in sé. E perché dovrebbe cercare questo potere in sé, accumulare questo potere in sé, se non per, di sottofondo, nelle sue notti, nella sua quotidianità, colmare un'impotenza e una paura della morte? Di sottofondo. Adler, Ernest Baker, tanti psicologi e antropologi ci hanno detto che i principali capi che noi vediamo all'esterno, di sottofondo, non stanno facendo altro che costruire la loro strategia di immortalità. Stanno ipercompensando un grande senso della morte, è lì che hanno quella carica inarrestabile. E quindi quel tipo di leader di vecchio stampo cerca il potere in sé, il potere, diciamo, in quanto tale. La forma di leader di cui noi stiamo parlando, invece, ha un potere che, come in italiano, è un potere come verbo servile. Il potere, in italiano, è una parola che è un verbo servile, cioè accompagna un'altra. Quindi la riflessione del potere, potere cosa? Poter esprimermi, poter creare, poter fare accadere, potere cosa? Quindi già è un potere al servizio di una possibilità. Primo punto. Secondo punto. È una leadership in cui c'è una frase di se leggi i libri in inglese ti suggerisco questo libro che è bellissimo, si chiama The Servant Leader, il leader servitore, di Robert Greenleaf, che è un filosofo americano, e lui dice: la civiltà del passato ha dato potere a coloro che accumulavano funzionalità esterna, tutta una serie di caratteristiche. La civiltà del futuro darà potere, dovrà dare, se vuole sopravvivere, potere a coloro che servono meglio. Cioè, lui coglie questa parola che è servant leader, leader servitore, dove dice che la scelta intima di un uomo è prima di servire, cioè di essere dato da una causa più grande di sé, che guarda caso è l'opposto della tua ferita, cioè della tua umiliazione, eccetera, eccetera. Quindi prima di tutto questo, e poi il potere ce l'hai come effectum, non per intenzione, ma per effectum, dice lui, dell'adesione a questa causa, così come i grandi leader hanno fatto in qualche modo. Cioè il loro focus non era prima di tutto devo essere immortale, era prima di tutto questa è la causa che mi rende più umano, prima di tutto. Poi, non è che la vita non deve funzionare, che non devo più lavorare, non devo più guadagnare, cioè che la vita che funziona non va più bene, ma la vita che funziona deve essere il prodotto di una vita che conta, non una vita che funziona a spese di una vita che conta. Qui mi fermo perché ci sarebbero altri tratti. Autore, il professor Ventola, perché è stato veramente molto interessante e di ispirazione, ecco, bisogna avere un po' più di coraggio, pensiamo a questa ecologia dell'umanità che forse dovremmo affrontare. So che in fondo ci sono dei libri, delle copie, chi volesse appunto acquistarla, c'è anche Renato che dà una mano, e Annalisa, vuoi dare tu una conclusione a questa serata? Grazie ancora, grazie a voi. prima di tutto ringrazio assolutamente Mauro che continuerà a essere con noi in questi due giorni fino a domenica con dei lavori specifici che faremo sia a Trento che domenica a Bolzano. È sempre quando facciamo anche i direttivi, perché tra l'altro è il direttore del centro di Napoli, non l'ha detto, ma lo è sempre una fonte di ispirazione e di movimento dinamico, perché effettivamente torniamo a casa con sempre riflessioni da portare poi anche ai nostri centri e ai nostri soci. Stasera alle 8:30, oggi è la giornata mondiale della psicosintesi, chi desidera vi aspettiamo al centro in via Portici 51 per un momento ancora con Marco di meditazione, di riflessione conviviale e di presentazione anche del nuovo programma e delle nostre attività che avete senz'altro trovato anche sulla sede. Avremo delle conferenze quest'anno, solo due minuti ancora, in diversi luoghi della città, e questa è stata un po' anche una scelta voluta, e ritorniamo al coraggio di volere, per farci non solo conoscere in diversi luoghi, ma soprattutto perché avremo un evento importante. Ad aprile, dal 24 al 26, ci sarà il Congresso Nazionale di Psicosintesi proprio qui a Bolzano. Manca da 30 anni. E quindi l'intenzione è proprio di diffondere e di fare conoscere al meglio quello che è lo spirito della psicosintesi. E questo è tutto. Grazie dell'ospitalità, Valeria.